Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Sulle banche Renzi contrattacca, non accettiamo lezioni, opposizioni verso una mozione di sfiducia comune, il governo pensa a cambiare il sistema di vigilanza. Il centro studi di Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia e lancia l'allarme evasione, se fosse dimezzata avremmo un 3% di PIL in più. Tangenti sugli appalti per la manutenzione delle strade, nuova ondata di arresti a Roma, in manette 7 funzionari del comune per mazzette fino a 100.000 euro. Salah, ricercato numero uno per le stragi di Parigi, era a Bruxelles, ma la legge belga vieta perquisizioni tra le 23 e le 5 del mattino, lo rivela il ministro dell'Interno. In corso lo sciopero dei medici, adesione al 75%, secondo i sindacati, sono saltati 40.000 interventi, a rischio 2 milioni di prestazioni. È morto a 96 anni Licio Gelli, che fu a capo della loggia massonica P2, al centro di molte trame oscure della storia italiana, nella tomba si porterà molti segreti. Polemica sul Rijksmuseum di Amsterdam, che decide di rinominare 350 opere. I titoli con dentro le parole negro, boscimano, eschimese o maomettano sono offensive. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci una mail, c'è anche il numero di sms, il 349-238-6666 e come ben sapete ormai anche il contatto su WhatsApp che risponde allo stesso numero 349-238-6666. Come avete sentito sono tante le notizie, oggi le tratteremo partendo ancora dalle polemiche politiche che riguardano il decreto salva banche che portano, come sapete, il ministro Maria Elena Boschi al centro del dibattito con il padre che è stato vicepresidente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Più in generale le opposizioni sembrano coalizzarsi per una mozione di sfiducia all'intero esecutivo, al presidente del Consiglio, mentre lo stesso presidente del Consiglio Renzi contrattacca su questo e su altri fronti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, allora la prima replica di Matteo Renzi la fa all'interno del PD ed Enrico Letta, che parla di due pesi e due misure sulle personalità di governo fra Lupi e Boschi, non sta né in cielo né in terra, dice Renzi. Lupi si è dimesso perché ha ritenuto di non poter continuare, io lo apprezzo, qui il tema è se per Boschi c'è conflitto di interessi e per noi è un'accusa completamente falsa. Volevamo votare la mozione di sfiducia subito, ma credo che andremo alla prossima settimana. È l'ennesimo tentativo di trasformare il dibattito parlamentare in uno show. Noi non c'eravamo, dice Renzi, mentre ci sono partiti che si sono fatti le banche. E Renzi non risparmia una frecciata a Salvini, non credo che correrà come premier perché i moderati italiani non possono farsi rappresentare da lui. Sulla mancata elezione dei giudici della Consulta annuncia il blocco sarà risolto nelle prossime ore. Parla anche di amministrative per rispondere al Movimento 5 Stelle. Se si voterà a Roma come prescrive la legge il prossimo anno, si voterà perché lo ha deciso il PD mandando a casa il sindaco Marino. Dal canto loro le opposizioni annunciano una mozione di sfiducia sul governo Renzi proprio per la vicenda del decreto salva banche, la firmano Berlusconi, Meloni e Salvini, e il Movimento 5 Stelle apre e dice potremo votare la mozione del centrodestra. Te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Ci spostiamo intanto ad Arezzo, dove proseguono le indagini proprio sulla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio su vari fronti. Ci colleghiamo con l'inviata del Sole 24 Ore ad Arezzo, Sara Monaci. Sara, buongiorno. E qual è il punto di giornata? Allora, non ci sono ad oggi colpi di scena, ma possiamo dire che e la Procura ha effettivamente aperto tre filoni di inchiesta relativamente alla Banca Popolare dell'Etruria. Il primo, l'ostacolo alla vigilanza, che era quello più noto negli ultimi giorni, due importanti filoni sono stati aperti, il primo concluso, emissione di fatture false e la mancata comunicazione di conflitti di interesse. Torna di nuovo il conflitto di interesse, in questo caso si parla del fatto che le persone all'interno del CDA avrebbero dato dei finanziamenti a se stessi senza utilizzare le procedure previste per chi ha un potenziale conflitto di interesse, essendo sia erogatore che ricevitore di un finanziamento. Si tratta di un fatto piuttosto grave perché la banca, quando ha continuato in questo tipo di attività, era già in grave dissesto. Si parla quindi di una perdita intorno ai 2 miliardi, tre volte il capitale. È per questo che poi sono intervenute le delle procedure di fatto fallimentari. Si parla anche di possibili azioni di responsabilità nei confronti degli ex vertici. Al momento ci risultano, ma sono chiaramente momenti in continuo sviluppo, ci risultano 7 indagati, tra cui i vertici prima del 2013 e i vertici poi dal 2013 al 2014, più altri 2 manager di una società esterna che si chiama Meteorios e che avrebbe erogato fatture false, quindi utilizzando i sistemi per aggirare non soltanto l'IVA ma proprio permettendo delle operazioni fittizie alla banca. Ecco, tutto questo è agli atti, così come le tre relazioni della Banca Italia che hanno effettuato controlli dal 2009 circa fino poi al 2014, e in questo momento ci troviamo quindi in attesa della richiesta di rinvio a giudizio per i primi 2 filoni. Allora vedremo che cosa succederà da questo lato. Grazie intanto a Sara Monaci, inviata del Sole 24 Ore ad Arezzo. Più avanti torneremo a parlare di banche anche nella seconda parte della trasmissione. Intanto andiamo ai dati diffusi oggi dal centro studi di Confindustria, che rivede le stime sul PIL, esprime qualche preoccupazione e parla di evasione fiscale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Viale dell'Astronomia corregge al ribasso le previsioni per il PIL italiano. La nostra economia, anziché accelerare, sta rallentando, spiega il centro studi di Confindustria. Ma quali numeri che segnano di fatto una frenata? Il 2015 si dovrebbe chiudere con un più 0,8% rispetto al precedente 1% elaborato a settembre, più 1,4% nel 2016, dal precedente 1,5% e 1,3% nel 2017. Trend positivo invece per la disoccupazione, che scenderebbe nell'arco di 3 anni all'11,1% con 650.000 nuovi posti di lavoro. Ma cosa blocca il paese? Il mancato decollo della ripartenza resta un vero rebus, dicono gli industriali, che puntano il dito comunque sull'evasione fiscale e contributiva, che penalizzerebbe di ben 3 punti percentuali il PIL. Sentiamo allora su questo il presidente di Confindustria Squinzi. I risultati della lotta all'evasione devono essere indirizzati esclusivamente alla diminuzione del carico fiscale per dare vita ad un circolo virtuoso in cui la maggiore osservanza degli obblighi fiscali viene premiata da un minor prelievo, un circolo simmetrico e opposto a quello che si è creato in passato, quando la mancanza di gettito dovuto all'evasione è stato compensato aumentando la pressione. La crescita stenta, serve uno scatto bruciante, aggiunge il leader degli industriali, quindi il ministro dell'economia. Dovete essere più ottimisti ed aggressivi, le parole di Padoan agli imprenditori. C'è la ripresa ma è debole, non c'è accelerazione. Sono tra quelli che ritiene, conclude Padoan, che l'ipotesi di stagnazione secolare non sia così peregrina. È tutto, linea allo studio. E grazie anche al nostro Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo alla cronaca con l'inchiesta sulle tangenti a Roma, 7 funzionari in manette. Individui che non hanno esitato a barattare la loro funzione pubblica con alcune migliaia di euro, incuranti delle difficoltà della capitale che fa fatica ad assicurare ai suoi abitanti una qualità di vita consona al suo rango di metropoli europea. Scrive così il GIP di Roma Massimo Di Lauro, spiegando perché non ha concesso i domiciliari ai 7 funzionari arrestati questa mattina nell'ambito dell'inchiesta che vede 18 indagati tra funzionari pubblici dei diversi municipi del comune di Roma. La storia e l'inchiesta è quella già nota dal 14 ottobre scorso, quando furono arrestati gli imprenditori Luigi Martella, Alessio Ferrari e Ercole Lalli. Soldi in cambio del mancato rispetto delle regole, soldi per chiudere un occhio sulla qualità dei lavori di manutenzione di strade e infrastrutture. Sono 33 le gare d'appalto su cui indaga la Procura di Roma, 16 milioni di euro il valore degli appalti su cui sarebbero state pagate 650.000 euro di mazzette. Impressionanti le rivelazioni che emergono dalle intercettazioni. Tangenti date per ottenere il via libera a far male opere di uso pubblico. Tutto lascia pensare che il sistema coinvolga gran parte delle imprese che operano nel settore della manutenzione urbana, e quanto sostiene la Procura di Roma negli atti dell'indagine. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero, andiamo in Iraq, dove arriveranno 450 altri soldati italiani. L'appalto, che vale 2 miliardi di dollari e che è in ballo da 6 anni, non è stato ancora assegnato, ma la diga di Mosul, il più grande serbatoio d'acqua artificiale dell'Iraq, il quarto nel mondo arabo, costruito sul fiume Tigri, è danneggiato e ha bisogno di continui innesti di cemento nelle fondamenta. Qui, nell'estate di un anno fa, lo scontro tra i peshmerga curdi e i jihadisti è stato violentissimo. L'impianto, a 35 km a nord di Mosul, è alto 131 metri e lungo 3,2 km, ha una capacità di 8 milioni di metri cubi e fornisce elettricità a poco meno di 2 milioni di persone. Per le riparazioni è stata chiamata la Trevi, un'azienda di Cesena che opera in tutto il mondo e che da 6 anni è in gara per aggiudicarsi i lavori. Per permettere all'impresa e ai suoi addetti di lavorare in sicurezza, il governo ha deciso di inviare a Mosul 450 militari, oltre a quelli già presenti in Iraq con i compiti di addestramento. Da molti la diga viene considerata una possibile arma nelle mani dei terroristi. Nel febbraio del 2014 il califfato minacciò di farla saltare. Se dovesse crollare, potrebbe provocare un'onda alta fino a 30 metri che colpirebbe Mosul e tutta la regione, provocando la morte di almeno 500.000 persone. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dall'Iraq, mentre la Germania questa mattina ha partecipato per la prima volta ad un attacco aereo contro l'ISIS in Siria, naturalmente con il ruolo che la stessa Germania ha assegnato ai suoi voli, ossia un aereo di rifornimento. Ha rifornito nella notte 2 jet della coalizione internazionale contro l'organizzazione terroristica, lo ha riferito un portavoce dell'esercito. Avete sentito l'annuncio di Renzi in merito ai 450 soldati in Iraq, ma questa mattina il Presidente del Consiglio è intervenuto in vista del Consiglio europeo con all'ordine del giorno molti punti importanti. Visione e non solo reazione, strategia e non emotività, questo lo spirito con cui secondo Renzi occorre affrontare le sfide che ci attendono: sicurezza, terrorismo, immigrazione, temi legati a doppio filo e dei quali si parlerà domani al Consiglio europeo a Bruxelles, in particolare con la proposta della Commissione di creare una guardia di frontiera costiera sulle ceneri di Frontex e più controlli per chi entra nella zona Schengen. Matteo Renzi intanto rilancia sull'impegno dell'Italia e commenta così l'apertura di una procedura contro il nostro paese per la mancata identificazione dei migranti. Trovo davvero strabiliante che in Europa qualcuno abbia pensato di aprire una procedura di infrazione perché non tutte le persone che abbiamo salvato in mare sono state identificate con le impronte digitali. Quanto agli hotspot, Renzi assicura: siamo pronti e bacchetta l'Europa così. L'Italia ha aperto il primo hotspot, domani si aprirà il secondo a Trapani. Siamo pronti su Taranto, su Pozzallo. Chiederemo agli europei se sono in grado di tener fede ai loro impegni. In ogni caso, dice ancora Renzi, blindarsi, sigillare i confini non serve a nulla, la risposta deve essere ancora una volta culturale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dunque restano in primo piano i temi che viaggiano tra quello del terrorismo e quello dell'immigrazione. Proprio a proposito di questo, sempre in sede europea, l'Italia sta trattando per fermare il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Europa a due velocità sulle sanzioni economiche decise nel 2014 nei confronti della Russia dopo l'intervento militare in Crimea e l'offensiva dei separatisti filorussi nel Donbass. Matteo Renzi parla apertamente di una linea italiana che potrebbe portare a rivedere, non è questione di ore, dice, ma di mesi, il pacchetto europeo, mentre Londra e soprattutto Varsavia e i paesi baltici dicono decisamente di no. Il ministro degli esteri polacco, Wasikowski, ha espresso per primo il disappunto per l'iniziativa di Roma, ribadendo che le sanzioni sono legate agli accordi di Minsk 2 sull'integrità ucraina, dove la guerra, sebbene a bassa intensità, è tutt'altro che superata. Il pacchetto sanzioni scade il 31 gennaio e dopo che il rinnovo automatico è stato frenato dall'Italia, il capo della nostra diplomazia Gentiloni aveva lasciato capire che l'Italia non si sarebbe opposta al rinnovo, ma chiedeva una discussione politica e l'inserimento del tema nell'agenda del vertice UE di domani e venerdì. Negativa anche in questo caso la risposta del presidente del Consiglio UE Donald Tusk, che ha invece messo la questione all'ordine del giorno della riunione dei rappresentanti permanenti prevista per venerdì. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di terrorismo, c'è questa notizia alla quale vi accennavamo nei titoli e che è stata diffusa questa mattina dai media belgi sulla scorta di un'intervista rilasciata dal ministro della giustizia ad un programma di una TV fiamminga. Il ricercato numero uno degli attentati di Parigi, Salah Abdeslam, era stato verosimilmente localizzato a Molenbeek, che è il quartiere di Bruxelles dove, come vi abbiamo raccontato, sono avvenuti molti dei raid della polizia nella notte tra il 15 e il 16 novembre. ma non poté essere arrestato perché il codice penale belga impedisce le perquisizioni notturne tra le 23 di sera e le 5 del mattino. Ci sono solo due eccezioni in questo caso: l'incendio o il flagrante delitto. Ed evidentemente questa, la ricerca di Abdeslam non ha fatto eccezione, le questioni legate al terrorismo non vengono comprese nel flagrante delitto. Siamo alla morte di Licio Gelli. All'allora direttore del quotidiano L'Occhio, Maurizio Costanzo, alla domanda «Cosa vuoi fare da grande?», il venerabile Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, rispose in modo certo e sicuro: «Meglio fare il burattinaio che il burattino», aveva detto. E in tutta la sua vita questo è riuscito a realizzare: muovere i fili occulti del potere. Non c'è vicenda della storia contemporanea italiana in cui Gelli non è stato inquietante protagonista. Il tentato golpe del principe Unio Valerio Borghese, la morte del banchiere Roberto Calvi, il crack della banca privata di Michele Sindona e ancora l'assalto al Corriere della Sera, il caso Moro, Tangentopoli, fino alla strage alla stazione di Bologna, per cui è stato condannato in via definitiva per i gravissimi depistaggi successivi all'eccidio, in combutta con i servizi segreti. Dalla sua villa Wanda di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, in molti sono andati a prendere consiglio, a volte a prendere ordini. Licio Gelli se ne va a 96 anni e si porta dietro una quantità impressionante di vicende mai chiarite. È sospetto che all'elenco di quasi 1000 nomi iscritti alla P2, il gotha del potere politico economico e militare di allora, ritrovato nel 1981 dai magistrati di Milano Colombo e Turone, mancasse un tassello, un altro gruppo di nomi più ristretti e coperti che avrebbero poi condizionato la scena politica dei successivi 34 anni. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti della vicenda della P2 torneremo a parlare, lo faremo insieme a Massimo Teodori, che è uno storico, un politico, fu un politico, scrittore e giornalista italiano. Teodori fece parte, da deputato radicale, della commissione bicamerale d'inchiesa che si occupò proprio della P2. Ci faremo raccontare da lui, che di questo fece anche un libro, che cosa rappresentò. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi subito dopo parleremo dello shop dei medici di oggi. Ci torneremo ad occupare di banche e poi appunto di P2. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sulle banche Renzi contrattacca, dice non accettiamo lezioni, le opposizioni verso una mozione di sfiducia comune. Centro Studi di Confindustria rivede a ribasso le stime di crescita dell'Italia e lancia l'allarme evasione. Squinzi dice il peggior concorrente che ho è chi non paga le tasse. Tangenti sugli appalti per la manutenzione delle strade, nuova ondata di arresti a Roma, in manette 7 funzionari del comune. Salah è ricercato numero uno per le stragi di Parigi e a Bruxelles, ma la legge belga vieta perquisizioni tra le 23 e le 5 del mattino. Ci occupiamo adesso dello sciopero dei medici. Saluto Giorgio Stamatopoulos, che questa mattina tra l'altro è stato al presidio dei medici a Roma. Ci sono, se non erro, i numeri ci parlano di 40.000 interventi saltati in giornata. Quali altri abbiamo? Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sì, esattamente, lo ha diffuso questo dato il sindacato degli anestesisti ed è una delle conferme dei numeri, diciamo, fatti alla vigilia per uno sciopero, una protesta che, lo ricordiamo, interessa oltre 200.000 camici bianchi. In tutto potrebbero essere fino a 2 milioni le prestazioni che oggi appunto sono destinate a saltare, ma rimanendo appunto con i numeri, sarebbe di almeno il 75% l'adesione appunto allo sciopero detto oggi di medici, pediatri e veterinari del servizio pubblico, e questi invece sono dati diffusi dai sindacati di categoria ANAO e FIMG, ovvero medici ospedalieri e di famiglia, che sostanzialmente denunciano la mancanza di un progetto nazionale di sostenibilità del servizio sanitario nazionale e invocano nuove assunzioni. Sentiamo proprio su questo punto Domenico Iscaro, che è il presidente dell'ANAO Massomed. La grave sofferenza che hanno i medici italiani è determinata dal blocco del turnover. I medici che vanno ad andare in pensione negli ultimi 7 anni non sono mai stati sostituiti. In alcuni casi si è fatto ricorso a ore di straordinario che ormai raggiungono le migliaia, più delle volte neanche retribuito, oppure ricorrendo al lavoro precario, che essendo un lavoro instabile non può essere adeguato a un servizio sanitario nazionale come il nostro. Come sapete, ieri è arrivata una apertura del governo proprio su questo punto, in serata nelle more della discussione intorno alla legge di stabilità, un'apertura che comunque è stata accolta con molto scetticismo, il che di fatto si traduce in una conferma di altre possibili giornate di sciopero, già a cominciare dai primi giorni del prossimo anno. E per il momento è tutto. Ti ringrazio, grazie a Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento, e ce n'è uno che mi devo dare io, appena abbattuto dalle agenzie. Un individuo a bordo di un'auto ha forzato l'ingresso principale del complesso monumentale degli Invalides a Parigi. È lo stesso nel quale, quel complesso, lo ricorderete, nel quale si è svolta la cerimonia di commemorazione per le vittime degli attentati del 13 novembre. L'auto ha forzato il controllo ed è penetrata all'interno del cortile d'onore dell'edificio. Un gendarme ha sparato. Questi sono i dettagli che abbiamo al momento dalle agenzie. Altri ve ne daremo appena ci arriveranno, evidentemente. Nel frattempo torniamo a parlare di banche, lo facciamo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno. E bentornato ai nostri microfoni. Nell'attesa che arrivino notizie sia dal lato politico sia dal lato delle inchieste giudiziarie, vorremmo fare un punto con te sulle altre banche in difficoltà. Non ce ne sono altre al momento, almeno apparentemente, nelle stesse condizioni delle quattro che sono state salvate dall'esecutivo, però forse vale la pena mettere l'accento su quel che può succedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Marco. Indubbiamente l'attenzione che sta, come dire, emergendo su tutto il sistema bancario sta evidentemente facendo anche crescere un po' così l'attesa e l'allarme intorno alle banche, diciamo, pericolanti. Ora, come dicevi tu giustamente, le quattro banche in grosse difficoltà sono state salvate, quindi questo è il primo dato di fatto. Diciamo che c'è un elenco di altre banche che stanno, come dire, hanno avviato un processo di risanamento, un risanamento costoso per gli azionisti, che, se verrà evidentemente sostenuto dai soci, consentirà a queste banche di proseguire in autonomia. Diversamente potrebbero aprirsi, come dire, passaggi più delicati, non così lontani da quelli che abbiamo visto per le quattro banche. In particolare mi viene da citare sicuramente le due grandi popolari del Nord-Est, quindi Popolare Vicenza e Veneto Banca. Un po' se ne è parlato negli ultimi mesi perché al centro di vicende analoghe a quelle che stanno emergendo in questi giorni sui bond subordinati di Banca Etruria, Banca Marche e quant'altro, sono banche che hanno avuto bisogno di finanziarsi molto con la propria clientela, e a volte ci sono stati sicuramente episodi, a perlomeno le inchieste sembrano dimostrarlo progressivamente, ci sono stati abusi da parte di chi ha collocato questi prodotti. Detto questo, i management sono stati rinnovati. Sono piani di risanamento molto, molto ambiziosi, peraltro condivisi con la vigilanza europea, con la BCE, e se verranno appunto avallati dai soci consentiranno le banche di andare avanti, quindi, diciamo, mantenendo tutti gli impegni con i propri interlocutori a partire dagli obbligazionisti. In questo caso credo il primo esempio che vale la pena citare è quello di Veneto Banca, se non altro perché sabato ci sarà l'assemblea straordinaria dei soci, in cui peraltro a Montebelluna sono attese 5-6.000 persone, quindi sarà sicuramente un momento significativo in cui appunto i soci dovranno esprimersi sia sulla trasformazione in SPA, che come sappiamo attende tutte le grandi popolari, questo per legge, ma anche sul nuovo grande aumento di capitale, sulla quotazione in borsa. Il presidente, il signor delegato, sono stati molto chiari nel dire che se i soci daranno via libera a tutti questi passaggi, la banca andrà avanti e ci sono tutte le premesse perché, come dire, possa tornare assolutamente in sicurezza e proseguire da sola o magari con qualche fusione. Diversamente potrebbe intervenire la BCE, quindi la vigilanza europea, e non si sa che cosa potrebbe accadere. Grazie a Marco Ferrando per questo aggiornamento, per un quadro un po' su quello che succede in prospettiva. Primo appuntamento, come avete sentito, dunque sabato. Massimo Teodori è uno storico, politico, scrittore, è giornalista, insomma molte cose. Intanto la saluto. Buongiorno, troppe cose. Ridimensioniamo. Allora ridimensioniamo e la presento per il motivo per il quale l'abbiamo chiamata. Lei fu da deputato radicale, membro della commissione bicamerale d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Oggi abbiamo raccontato anche nei nostri titoli la morte di Licio Gelli a 96 anni e chissà quanti segreti, dice qualcuno, si è portato nella tomba. Le chiediamo di aiutarci, Teodori, perché molti nostri ascoltatori forse nemmeno hanno esattamente presente che cosa fosse la P2. E allora una sorta di tutorial. Le chiediamo innanzitutto cosa fu la P2. La P2 apparentemente è stata sempre descritta come una loggia deviata della massoneria, diretta dal capo Licio Gelli. In realtà, a mio avviso, è stata una specie di consorteria che riuniva alcune centinaia di persone, le quali agivano su un piano sotterraneo rispetto alla legalità istituzionale. Agivano un piano sotterraneo a parere di molti per sovvertire la legalità istituzionale, il governo, eccetera, eccetera. A mio parere, invece, il carattere eversivo di quella congrega non era quello di sovvertire il potere, perché ne facevano parte tutte le altre sfere del potere, ma quello di aumentare il potere del sottopotere, mi si perdoni il bisticcio, cioè una specie di agenzia di servizio per gli affari sporchi del potere. Questo, secondo lei, fu in sostanza la P2. Che pericolo rappresentò per quel momento e in quel momento storico? E in quante delle trame che abbiamo raccontato fu implicata la P2? A mio avviso il pericolo era quello che, accanto all'Italia ufficiale, istituzionale, del governo, della politica, dei partiti, dell'economia, della finanza, dell'apparato militare o dei servizi, ce ne fosse un altro occulto che prendeva il suo potere, quindi una specie di talpa che scavava sotto per aumentare il potere, diciamo così, chiamato oscuro, occulto o non so come, soprattutto per fare i propri affari e affari degli amici collegati. Questo è il vero carattere eversivo, che poi è stato sempre il carattere eversivo, diciamo, della sottoitalia, che poi è seguitato a essere tale sotto molte altre forme, soltanto che in quel momento Gelli fu una specie di genio in questo tipo di attività, perché riuscì a mettere insieme queste lobby malefiche, sia dei mezzi di comunicazione di massa, che dei servizi segreti, che dell'economia, che della grande banca, che dei grandi apparati dello Stato, mettendoli insieme e facendoli reagire per aumentare il potere di ciascuno. L'ultima domanda che le voglio fare è: che cosa e quanto soprattutto rimane di non chiarito della vicenda P2, secondo lei, Teodori? Io credo che della vicenda P2 è stato tutto chiarito. Quello che su cui io non concordo è la vulgata accreditata dai più, non da me, che sono stato relatore di una relazione di minoranza in quella commissione, che dice che era sostanzialmente un gruppo di persone che voleva ribaltare il governo e ribaltare l'ufficialità attraverso il piano di rinascita democratica, che non era altro che un assemblaggio di idee, di riforme costituzionali, di idee che poi in seguito sono state discusse e magari anche messe in pratica altrimenti. Quindi quello che rimane oscuro è questo tipo di vulgata che ha attribuito alla P2 un carattere diverso da quello che effettivamente aveva, cioè di sottobosco della realtà ufficiale e istituzionale italiana. La ringrazio, grazie a Massimo Teodori che è stato con noi, avete sentito la sua opinione, uno storico politico, uno scrittore e appunto fu relatore di minoranza della commissione, presentò la relazione di minoranza della commissione bicamerale d'inchiesta sulla P2. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo tra gli argomenti dei quali parleremo, questa vicenda della quale vi accennavamo nei titoli, questa polemica sul Rijksmuseum di Amsterdam, il più grande museo olandese che decide decide di rinominare 350 opere, titoli con dentro le parole negro, boscimano, eschimese o maomettano sono giudicate offensive e quindi il titolo dell'opera cambia. Questo sta generando naturalmente una grande discussione. Abbiamo sentito Philippe Daverio, sentiremo la sua intervista tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le ultime notizie arrivano da Parigi, dove un uomo ha forzato l'ingresso del complesso monumentale degli Invalides con un'auto. L'auto è penetrata all'interno del cortile d'onore dell'edificio. Un gendarme ha sparato, non ci sarebbero feriti. Tra poco gli aggiornamenti, appunto, in diretta da Parigi. Sulle banche Renzi contrattacca, non accettiamo lezioni, opposizioni verso una mozione di sfiducia comune, il governo pensa a cambiare il sistema di vigilanza. Il centro studi di Confindustria rivede a ribasso le stime di crescita per l'Italia, lancia l'allarme evasione, se fosse dimezzata avremmo un 3% di PIL in più. Le tangenti sugli appalti per la manutenzione delle strade, 7 arresti tra funzionari del comune di Roma. E il Belgio sarà ricercato numero uno per le stragi di Parigi, era a Bruxelles, ma la legge belga vieta perquisizioni tra le 23 e le 5 del mattino. Infine lo sciopero dei medici, adesione al 75%, secondo i sindacati, saltati 40.000 interventi, a rischio 2 milioni di prestazioni. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le ultime notizie arrivano dal fronte della lotta al terrorismo. La notizia è che 2 persone sono state arrestate in Austria, a quanto pare a Salisburgo, in connessione con gli attentati del 13 novembre a Parigi. Secondo quanto riporta un giornale austriaco, si tratterebbe di cittadini francesi e che hanno finto di essere dei profughi. Nel frattempo, nella stessa Parigi, nel complesso monumentale degli Invalides c'è stata un po' di confusione, come vi abbiamo raccontato poco fa. Ovviamente i nervi sono tesi, però chiediamo dettagli a Marco Moussané per capire se si tratti di un possibile attentatore o semplicemente di un folle. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. No, si tratta di un falso allarme. Verso mezzogiorno meno un quarto un'automobile ha forzato l'ingresso degli Invalidi, un poliziotto ha sparato alle gomme per fermarlo, ma era apparentemente un uomo non conosciuto dai servizi di polizia dai servizi di intelligence interni, ha pronunciato le frasi incoerenti, insomma apparentemente uno squilibrato. Apparentemente uno squilibrato, ci sono comunque gli artificieri sul posto, ci sembra di capire, per vedere se dentro l'auto ci sia dell'esplosivo. Sì, no? Certo. Ovviamente, è chiaro che in questi momenti, come dire, la tensione è tale per cui qualunque piccolo incidente ovviamente, però insomma mi sembra che non si tratti di un evento preoccupante. Grazie a Marco Moussané per questo aggiornamento su quello che è successo a Parigi poco fa. Altra notizia di pochi istanti fa, l'inviato speciale dell'ONU per la Libia è arrivato a Tobruk per un round di colloqui dopo il no alla firma dell'intesa sul nuovo governo annunciata ieri dai presidenti dei 2 parlamenti rivali. Tra gli incontri previsti anche quello con il generale Khalifa Haftar, vedremo come andranno le cose in Libia. Intanto ci occupiamo del Rijksmuseum di Amsterdam, che ha deciso di rinominare 350 opere all'insegna del politicamente corretto. I titoli con dentro parole come negro, boscimano, eschimese o maomettano sono giudicate offensive e quindi si procederà a rinominare queste opere. Abbiamo chiesto un'opinione al critico d'arte Philippe Daverio, sentiamo. Si tratta di capire se il revisionismo funziona sempre bene e quanto il revisionismo ci tolga dei significati. Cioè, quando nel 1800, all'inizio del XIX secolo, viene la moda della pittura, per esempio, su chi ha la pelle nera, chi non si parece politically correct, no? Ci sono i quadri di Géricault, Tête de Nègre, perché così si chiamava allora, nessuno si poneva al problema del politically correct nel 1800. Il quadro, questo qua del ventaglio, tra l'altro, quello che è centrale nel dibattito del Rijksmuseum, è un dipinto dell'inizio del XX secolo, quando nessuno si sarebbe posto la questione. È vero che anche per la sensibilità di oggi, leggere la parola negro oggi ci dà una certa sorta di impressione di disagio, no? ed è anche vero che i titoli si possono cambiare perché non sono sempre gli artisti a averli dati, però abolire del tutto la coscienze del passato, in così nell'ottica di un politically correct che va ancora tutto definito. D'altro canto la cultura del XX secolo mutò nel mondo parigino grazie ad una cosa che si chiamava la negritude. La negritude era la passione per l'Africa. Nessuno avrebbe pensato che la negritude fosse un giorno da considerarsi una parola dispregiativa. Senza la negritude non avremmo le Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso. Sono argomenti sui quali il maneggiamento banalmente del political correct rischia di essere abbastanza goffo, è quasi la verità. E questa è l'opinione di Filippo D'Averio. Noi torniamo alla cronaca con un'operazione contro la mafia che ha portato tra l'altro all'arresto di una donna. Era una donna a tenere la cassa di Cosa Nostra, il suo nome è Teresa Marino ed è la moglie del boss del mandamento di Porta Nuova, Tommaso Lopresti, attualmente detenuto. Era lei a preoccuparsi dello stipendio per le famiglie dei detenuti e a dirigere quello che possiamo definire il dipartimento welfare della cosca. È soltanto uno degli aspetti dell'operazione seguita dai carabinieri di Palermo. 38 le persone finite in manette tra Palermo, Bagheria, Roma, Milano e Napoli, tutti fermati su ordine della procura antimafia di Palermo guidata da Francesco Lovoi e ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, illecita detenzione di armi e munizioni e turbativa d'asta. Le indagini hanno consentito di accertare come il mandamento di Porta Nuova rimanga uno dei più importanti a Palermo. Il legame di affari con le cosche di Bagheria, l'attività estorsiva continua, il ritrovato interesse della mafia per la droga con attività nel traffico di cocaina e l'ascesa al vertice di volti nuovi come il cinquantenne Paolo Calcagno, considerato il reggente del mandamento e finora mai indagato per mafia. Sul fronte del racket da registrare in questo caso la scarsa reazione degli imprenditori. Su una trentina di estorsioni accertate solo in 4 imprenditori hanno deciso di collaborare. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.